punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ho cercato di raggiungere la piazza Tahrir da una zona laterale, ma sono stato fermato da un gruppo di miliziani, poliziotti in borghese armati con dei lunghi coltelli, dei bastoni, e mi hanno poi consegnato, io col collega Michele Giorgio del Manifesto, ci hanno poi consegnato all'esercito, che ci ha portati in una caserma e trattenuti per circa un'ora. Adesso stiamo cercando di raggiungere un albergo nelle vicinanze di piazza Tahrir, ma in questo momento mi trovo in macchina, in un taxi, ma di nuovo la polizia ci ha fermato e ha preso i passaporti, quindi stiamo aspettando di capire se ci fanno proseguire o se dobbiamo tornare indietro. Breaking news. Ecco, forse lo sentite anche da questo sottofondo, questa è la voce dell'avviso che viene data dallo speaker in ogni camera. L'esercito ha occupato l'hotel Intercontinental Semiramis, che è affacciato giusto su piazza Tahrir. Viene proibito a ogni ospite dell'albergo di uscire o di affacciarsi alle finestre o ai balconi. E il generale Tartawi, ministro della difesa, che ha dato questo ordine e che oggi ha passato in rassegna e sta passando ancora in rassegna le truppe intorno alla piazza. Hanno steso il filo spinato e cercano di fare entrare la gente in maniera ordinata. Non ci sono ancora tensioni, ma stanno arrestando tutti i giornalisti e i cittadini stranieri. È stato arrestato Giovanni Porcio di Panorama e Michele Giorgio del Manifesto. Praticamente non ci si può avvicinare a questa piazza oggi. Albergo, tu in questo momento sei barricato in camera, no? Barricato direi che è un'espressione un po' esagerata. Ecco, ero raccontaci bene. Mentre stavo sentendo questo avviso e pensandomi alla sorte di Giovanni Porcio e di Michele Giorgio, con cui ho parlato al telefono, e Giovanni Porcio mi confermava che è stato arrestato dai militari, ma dovrebbero rilasciarlo tra un po' e accompagnarlo in albergo. Poi l'esercito, mentre io stavo appunto al telefono, è arrivato anche qui ed è stato diramato un avviso, proprio mentre stavo lavorando al computer, che da questo albergo non si esce più e non ci si può più affacciare alla finestra. Queste sono le strette regole dell'esercito militare. Ieri mattina erano le 11:36 minuti, una breaking news di Radio 24 racconta in diretta quanto accade nella capitale egiziana. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Punto e a Capo, il settimanale sonoro di Radio 24 per ripercorrere o magari percorrere, se qualcuno è stato un po' distratto da altre occupazioni, gli eventi principali della settimana, gli eventi che abbiamo raccontato attraverso i nostri corrispondenti, i nostri inviati, i nostri amici che chiamano continuamente Radio 24 e che contribuiscono in maniera così importante al nostro prodotto, naturalmente attraverso i nostri giornali radio e ai nostri programmi. Dunque, una puntata che inizia dal Cairo, dalla piazza El Tahrir, piazza della libertà, pensate, un nome naturalmente che è tutto un programma in queste giornate drammatiche, dove la presidenza, il regime di Hosni Mubarak arriva alla conclusione, al capolinea della sua storia. Il problema è capire cosa c'è dietro l'angolo. Proprio ieri mattina abbiamo appreso così direttamente dai nostri colleghi sul posto quanto la tensione stesse aumentando continuamente, quanto la violenza si stesse sostituendo al dialogo e al passaggio di consegne che ancora pochi giorni prima sembrava praticabile in maniera molto più tranquilla. Torniamo ancora con un contributo che ci riporta a Giovanni Porcio, dunque il giornalista che è stato arrestato, è stato fermato come diversi colleghi, poi rilasciato, ma che ci racconta in questo spezzone come questa piazza simbolo sia progressivamente diventata inaccessibile. Praticamente arrestano tutti gli stranieri che si avvicinano a piazza Tahrir. Tutti gli stranieri, con noi c'era anche una signora olandese che abita qui da 20 anni, è stata portata anche lei in caserma. La sensazione qual è secondo te? Perché non vogliono testimoni? È difficile dire quali sono le motivazioni. Certamente c'è nei confronti di tutte le media internazionali un atteggiamento di grande aggressività. Non vogliono che che si sappia cosa avviene all'interno della piazza. In questo momento ci hanno restituito i passaporti e ci fanno continuare. Stiamo andando in direzione di piazza Tahrir, ma penso che ci dovremo fermare fra poche centinaia di metri e rimanere in questo quartiere. No, non c'è la possibilità di accedere alla piazza per nessuno. La Midan El Tahrir, dunque la piazza della liberazione, così si chiama dal 52, quando un'altra ondata di protesta mandò in pensione la vecchia toponomastica appunto di Midan, piazza El Ismail, piazza di Ismaele. Ma insomma, l'Egitto è la nostra apertura, ma naturalmente non è l'unico tema, anzi tra qualche momento, subito dopo aver sentito un po' insieme come vanno le cose sulle strade italiane, ritorniamo nel nostro paese, dove sicuramente gli spunti questa settimana non mancano. Da una parte il grande tema del federalismo, poi il Ruby Gate, ma anche tutte le informazioni di attualità, quelle che abbiamo scelto appunto per riviverle con voi. Punto e a capo. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in cui rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta di emanazione del decreto legislativo sul federalismo. Pertanto il capo dello Stato ha comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal Governo. Tutto questo avveniva ieri all'ora di pranzo, dopo che giovedì il testo del governo sul federalismo era stato bloccato in commissione bicamerale e poi preso in carico dal governo con lo strumento del decreto legislativo. Un pareggio previsto, quello nella bicamerale, ma che di fatto frena il federalismo municipale. 15 voti a favore, 15 i contrari. Hanno detto sì PDL, Lega e la senatrice SVP Thaler. Si sono schierati per il no Terzo Polo, PD e Italia dei Valori. Determinante il no delfiniano Baldassarre. Un provvedimento che tutto era meno che federalismo municipale. Il governo va comunque avanti e il patto con la Lega è saldo, ha fatto sapere il presidente del Consiglio Berlusconi, che al disappunto del Carroccio ha risposto con un Consiglio dei Ministri straordinario già ieri sera. I numeri in bicamerale vanno rivisti, avverte intanto il presidente La Loggia, PDL. La maggioranza ha tenuto, quindi è motivo di soddisfazione. Questo purtroppo non risolve il problema di una composizione della Commissione che oggi non risponde più alle proporzioni tra i gruppi di maggioranza e i gruppi di opposizione. Soddisfatto il Partito Democratico, quello che è stato respinto era un pasticcio, ha dichiarato Bersani, per il quale è necessario ora riflettere e fermarsi per creare le condizioni per un vero federalismo. Se invece si persegue testardamente in un arrocco politico, noi ci sentiranno, mica solo qui a Roma, anche sulle valli. Il no è sul merito e comunque è una situazione senza precedenti, ha detto il presidente della Camera Fini. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da Vincenzo Miglietta a Paolo Panceri. Uscito dalla Camera, anzi dalla bicamerale, il federalismo municipale rientra dalla finestra. Infatti un Consiglio dei Ministri appositamente convocato, ieri sera in poco più di un'ora, ha dato via libera al decreto sul fisco comunale. Il testo approvato contiene le modifiche discusse dalla Commissione bicamerale e ha avuto il parere favorevole dell'Associazione dei Comuni. Soddisfatta la Lega, che si è spesa a tutto campo a favore del federalismo municipale. Secondo Umberto Bossi, finalmente i comuni avranno le risorse senza andarle a chiedere con il cappello in mano. I soldi resteranno sul territorio dove sono stati prodotti. Il rapporto con il PDL resta saldo, come spiega Fabrizio Cicchitto. Noi andremo avanti per quello che riguarda il federalismo. C'è un rapporto fra il PDL e Lega che si sta rafforzando. Secondo il segretario del PD, Pierluigi Bersani, si tratta di un inaudito schiaffo al Parlamento, una lesione senza precedenti delle prerogative delle commissioni parlamentari. Sentiamo invece il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Golpe, nel senso proprio tecnico del termine, e qui abbiamo a che fare con un rais nostrano. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora passiamo a sentire le voci dei protagonisti. Sicuramente un grande protagonista di questa vicenda è il ministro Giulio Tremonti. Controllare le spese, contrastare l'evasione fiscale, ricevere sotto il controllo dei cittadini, al margine, perché è chiaro che questo qua è un federalismo che comincia. Andrà avanti un circuito che dipende a questo punto dai cittadini, dipende dai sindaci, dipende dagli amministratori di province e regioni. Credo che sia questa la più grande e storica riforma strutturale mai iniziata

ambasciatore e la faccia dormire in ambasciata, non mandi una ragazza che dopo poche ore la riconsegna a una prostituta brasiliana, perché lo zio potrebbe prenderla abbastanza male questa cosa. Di Parlamento umiliato ha parlato invece il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro. Rimanga agli atti allora che oggi questo Parlamento, con il suo voto a favore delle pretese incostituzionali del Presidente del Consiglio, sta umiliando la sua funzione, e di ciò il popolo prima e la storia poi vi chiameranno a rendere conto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo la decisione della Camera di restituire alla Procura di Milano gli atti del Rubygate relativi alla richiesta di perquisizione dell'ufficio di Giuseppe Spinelli, sul presupposto che la competenza ad indagare sarebbe del Tribunale per i Ministri di Milano, vanno delineandosi, secondo gli esperti di procedura penale, alcuni percorsi possibili. In estrema sintesi, il primo, la Procura di Milano rinuncia alla perquisizione. È l'ipotesi al momento prevalente, di fatto anticipata dall'imminente richiesta di giudizio immediato per Berlusconi, dal momento che i pubblici ministeri milanesi ritengono di avere la competenza funzionale, in quanto a loro parere Berlusconi, per i fatti che gli sono contestati, avrebbe agito in qualità e non nella funzione di Presidente del Consiglio. Seconda ipotesi, i legali del Premier si rivolgono al GIP o al Tribunale. Prima che il giudice decida sulla richiesta dei PM di giudizio immediato, i legali del Premier potrebbero proporre proprio al GIP il problema della competenza funzionale, chiedendo che gli atti siano restituiti alla Procura perché li trasmetta al Tribunale dei Ministri. Il possibile conflitto di attribuzione è la terza possibilità. Se l'opinione della Camera circa la competenza del Tribunale per i Ministri non trovasse seguito davanti all'autorità giudiziaria, potrebbe essere sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Questo conflitto non avrebbe l'effetto di sospensione obbligatoria del processo, anche se in genere si preferisce attendere la decisione della Consulta. Insomma, staremo a vedere. Tra le molte conseguenze del caso Ruby abbiamo anche una manifestazione. Molte sono state in un primo tempo proposte e invocata, una rimane oggi ferma sulla data del 13 febbraio. Una mobilitazione, dicono appunto gli organizzatori, le organizzatrici, per ridare dignità alle donne, se non ora quando, è il titolo di questa iniziativa. Sull'opportunità di manifestare, di andare dunque in piazza per questa mobilitazione del 13 febbraio, Alessandro Milan ha interrogato due donne con pareri opposti. Sentiamole. Voglio iniziare a parlarne con Annalena Benini, che saluto, giornalista e scrittrice. Buongiorno Annalena. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perché noi abbiamo preso l'ultimo pezzo che ha scritto su Panorama: tremate, tremate, le streghe van bruciate. Che vuol dire? Cioè, perché c'è questo accanirsi contro queste donne, anche, parliamoci chiaro, le donne che vanno ad Arcole, per esempio. Sì. Esatto, di queste donne stiamo parlando, infatti, e di queste donne si parla negli appelli che vengono lanciati da altre donne dopo le ben note e oggettivamente tristi vicende di Arcore. E solo che c'è la spiacevole sensazione che ci si metta sempre fra donne, da una parte le perbene, che sono la maggioranza, e dall'altra parte le per male, che sono un'infima minoranza. Ecco, mi provoca un po' di disagio l'idea di andare in piazza contro altre donne, e mi sembra che si utilizzino in questo caso le donne o la condizione femminile, in questo caso la dignità femminile, per mandare a casa Berlusconi. Io voglio salutare l'onorevole Chiara Moroni, buongiorno, di Futuro e Libertà Finiana. L'onorevole Chiara Moroni oggi ha fatto un'intervista sull'Unità dicendo: no, è giusto che le donne scendano in piazza, perché proprio quelle conquiste a cui faceva riferimento poco fa Annalena Benini sono ora decenni di conquista finite al macero. Perché sono finite al macero? Beh, ma perché diciamo che i giornali di questi giorni, di queste settimane, ci consegnano un quadro di una società, di un modello in cui forse quelle conquiste, quelle vittorie sono ancora un po' da riconquistare, perché il modello, ma qua non si tratta di attribuire delle lettere scarlatte, ci parla peraltro con una che voglio dire, non ha certo un profilo moralista né nella sua vita privata né nella sua vita pubblica. Si tratta di pensare, di riflettere che società abbiamo. Io devo dire che sono rimasta molto colpita dalle dichiarazioni, soprattutto dei padri, delle madri, ma anche delle ragazze stesse. E lo spaccato è più o meno quello della scorciatoia, ed è un modello così di società che mi crea qualche perplessità, mi suggerisce qualche riflessione. Credo che le donne in qualche modo debbano tornare a indignarsi, debbano tornare non a fare la differenza tra le buone, le cattive, le brave, ma a dare un modello diverso. Questo però c'è onorevole Moroni, cioè queste donne, adesso indipendentemente dal fatto, il fatto di essere andate ad Arcola, almeno dalle intercettazioni, anche magari a fare una cena, noi non lo sappiamo, c'è la procura, ci sono i magistrati che andranno avanti, le ha un po' identificate. Parliamoci chiaro. Beh, non lo sappiamo, voglio dire, le intercettazioni sono abbastanza eloquenti. Sì, sì. Punto e a capo. I redditi delle famiglie italiane slittano pericolosamente verso il basso. Le associazioni dei lavoratori commentano con preoccupazione i dati Istat sul reddito disponibile delle famiglie nelle regioni nel periodo 2006-2009, che registrano per la prima volta una flessione dal 1995, con un calo del 2,7% del reddito disponibile. Sentiamo il servizio di Nicola Filippone. Nel 2009 le famiglie italiane sono diventate più povere. Lo ha certificato l'Istat, rilevando che in un anno il reddito delle famiglie, oltre a essere stato eroso dall'inflazione, è diminuito del 2,7% rispetto al 2008. Si tratta del primo segno negativo dal 1995. Il fenomeno si è rivelato maggiormente marcato al nord, Lombardia e Piemonte in testa. Tuttavia, il reddito complessivo rimane concentrato per oltre la metà nell'Italia settentrionale. Il distacco del mezzogiorno resta significativo, malgrado le conseguenze della crisi sui redditi familiari siano state un po' meno evidenti. A confermare le caratteristiche della fotografia scattata dall'Istat ci sono i dati della Confederazione Italiana Agricoltori. Nel 2009 una famiglia su tre è stata obbligata a tagliare la spesa per prodotti alimentari e oltre il 30% dei nuclei, a causa delle difficoltà economiche, ha optato per prodotti di qualità inferiore. Nicola Filippone, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Incontro al Ministero del Pubblico Impiego il prossimo venerdì 11 febbraio per esaminare il funzionamento della riforma dei certificati di malattia online. La convocazione, annunciata l'altro giorno dal ministro Brunetta, è arrivata ora alla principale sigla della categoria, compreso il presidente degli Ordini dei Medici, Amedeo Bianco. Il giorno prima, cioè giovedì, i sindacati saranno invece ricevuti al Ministero della Salute, sempre per la stessa vicenda. I medici di famiglia, che si sono riuniti ieri pomeriggio nell'intersindacale, hanno proclamato nei giorni scorsi lo stato di agitazione. Per capire come andasse la prima giornata alle prese con il nuovo certificato di malattia online, abbiamo fatto un giro in uno studio che unisce a Milano diversi medici di base. Davide Lauri è uno di loro. Il portale è inaccessibile, passa qualcosa ogni tanto. Significa io quindi, vengo qui, sto male, che ho bisogno... Non posso rilasciarle il certificato. Il sistema INPS, sostengono i medici, non riesce a gestire con velocità il flusso di certificati e finisce per essere lento o bloccarsi. Falso, risponde la società che lo gestisce. Il sistema è consolidato. La polemica nasce anche dalle sanzioni previste per i medici che non useranno la procedura. Ma il ministro dell'innovazione, Brunetta, assicura che non verranno applicate se il disguido dipenderà da problemi tecnici. La nuova procedura dovrebbe semplificare la vita dei dipendenti, che non dovranno più spedire all'INPS via raccomandata il certificato, manterranno comunque l'onere di presentare al datore di lavoro la ricevuta del certificato telematico. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Si è aperto mercoledì 2 febbraio a Trapani, davanti ai giudici di corte d'assise del tribunale, appunto, della città siciliana, il processo per l'omicidio del giornalista Mauro Rostagno, ucciso il 26 settembre 1988. Alla sbarra, accusati di quel delitto, sono il boss di Cosa Nostra Vincenzo Virga e Vito Mazzara, uomo d'onore di Valderice. Trapani significa Messina Denaro. famiglia mafiosa storica di quella parte della Sicilia, ma anche con Matteo Messina Denaro, di fatto il nome del più pericoloso latitante di mafia. Sentiamo adesso una piccola anticipazione, in realtà, di un programma che potrete ascoltare lunedì, dunque uno spunto, un'anticipazione di un'intervista che andrà in onda a Sottotiro di Antonio Ingroia, magistrato che nel 2009 è stato nominato procuratore aggiunto alla distrettuale antimafia di Palermo. Certamente Matteo Messina Denaro è l'unico sopravvissuto, cioè nel senso ancora in libertà, di quel nucleo duro, diciamo così, di Cosa Nostra, che deliberò, organizzò ed eseguì lo stragismo del 92. Quindi c'è anche una memoria storica, una memoria nel DNA di questa persona che sa come si raggiungono certi risultati. Esattamente, e siccome in questo momento è certamente capo incontrastato, quantomeno per la parte della Sicilia estremo occidentale, della provincia di Trapani verso la provincia di Palermo, e potrebbe incidere con le sue linee strategiche. Ecco, nel 93, nel 92 e 93 furono colpiti magistrati e luoghi simbolo di questo paese. Oggi che cosa potrebbe essere colpito? Beh, sa, non è facile fare previsioni di questo genere. Io dico soltanto che può esserci la tentazione da parte dell'universo mafioso di nuovamente farsi sentire alla vigilia appunto di quella che si dice essere una prossima Terza Repubblica. Siamo in una fase molto delicata di difficoltà politica, di stabilità politica istituzionale, ed è questo il momento in cui in genere il potere mafioso cerca di fare sentire la sua voce e incidere in qualche certo modo. E per chi volesse approfondire questo tema, l'appuntamento è questa sera alle 19.30, 30 minuti in cronaca, infatti si occupa proprio di queste vicende partendo dal processo che abbiamo appena raccontato e che si è aperto a Trapani. Punto e a capo. Dopo un leggero ritardo è arrivato finalmente The Daily, finalmente soprattutto per Rupert Murdoch e Apple, che ne sono appunto i padri. The Daily è il giornale iPad only, cioè che c'è solamente sull'iPad, un nuovo prodotto editoriale presentato mercoledì 2 febbraio al Guggenheim Museum di New York. A raccontarcelo Mario Platero ad America 24. Ieri è stata una presentazione piuttosto interessante. News Corp e Rupert Murdoch in persona ieri mattina hanno presentato a New York The Daily, cioè il quotidiano, un nuovo prodotto su iPad, un nuovo giornale elettronico. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Claudio Gatti, il nostro collega inviato del Sole 24 Ore qui negli Stati Uniti. Claudio, tu eri al Guggenheim, raccontaci intanto la scena. Beh, era una giornata disgraziata, pioggia, neve, ghiaccio, e anche dentro il Guggenheim varie signore con tacchi sono viste scivolare e cadere a terra. Detto questo, c'era una grande attenzione, non è stata come la presentazione dell'iPad, un file di gente fino alla sera prima, ma un pienone di giornalisti. Ecco, cos'è questo Daily? Come ha detto Murdoch, nuovi tempi richiedono un nuovo giornalismo. Per Murdoch il nuovo giornalismo è una miscela multimediale che ha elementi della stampa, della carta stampata, dei giornali, delle riviste, con fotografie a 360 gradi, con filmati video. Costerà 14 centesimi o al giorno o 99 centesimi alla settimana o 39 dollari all'anno. Avrà successo secondo te? Il successo commerciale, Murdoch ha detto che costerà circa 25 milioni di dollari all'anno per la produzione, ed è convinto che avrà un grande successo. Lui conta su i 50 milioni di iPad che saranno venduti entro l'anno prossimo e pensa che a quella cifra quasi tutti i proprietari compreranno anche l'abbonamento. Ma io già su internet vedo il New York Times, Wall Street Journal, insomma vedo mille siti che mi danno televisione, multimedia, foto, Twitter, accesso a Facebook. Perché dovrei averne uno nuovo? Perché dovrei avere questo Daily? Sull'iPad il prodotto è più interattivo, quindi ha una capacità di scambio di intervento del consumatore che permette di collegare a Twitter, Facebook, voltare pagine e quindi avere un ruolo più attivo. E come accade spesso, concludiamo sul cinema, magari anche come spunto per questo fine settimana. Il mercato cinematografico in Italia va forte, tutto positivo, il consuntivo 2010 presentato all'Anica, più 11% di presenze, più 17,9% gli incassi. Resta intanto in vetta alla classifica Cinetel qualunquemente, superando quota 11 milioni. Ma ieri è uscito un altro potenziale campione di incassi, Femmine contro Maschi, con la regia di Fausto Brizzi e lo spin-off di Maschi contro Femmine, che qualche mese fa portò a casa 13 milioni e mezzo di euro. Protagonisti, personaggi minori del primo film. Tra loro Luciana Littizzetto nel film La moglie di Emilio Soffrizzi, che qualcosa agli uomini, confessa Marta Cagnola, in realtà lo invidia. Che se ne sbattono le palle, questo io lo trovo meraviglioso perché è sano. Cioè, allora, non gliene frega niente di quello che sta succedendo intorno a loro. Loro sono il centro del mondo. Invece noi dobbiamo far quadrare tutto, la casa, i figli, il lavoro, noi stesse che nel frattempo ci deturpiamo. Invece loro stanno nel loro guscio e bene che stanno. Volevo sapere com'è nata l'avventura di questo film. Io avevo visto Ex, che mi era piaciuto e quindi quando mi ha chiesto Fausto mi ha fatto piacere, perché insomma sono delle commedie lievi però divertenti, non sono mai volgari. E poi Emilio mi piace come attore, e poi l'avevo visto in Tutti pazzi per amore, un sacco di film che ha fatto, quindi insomma è stata una bella esperienza. Quanto è rilassante per una volta non avere a che fare con la politica, con gli anelli da mostrare? Tantissimo. Io infatti chiamatemi, liberatemi da questo incubo, vi prego, perché è anche, sai cosa, essere uno strumento nelle mani degli altri, no? Non sempre te che te la canti, te la suoni, rischi la pelle tutte le volte, citazioni in giudizio, querele, lettere, il direttore. Invece fai il film e qualcun altro si assume tutte le responsabilità. Ah. Ma infatti si può fare un invito alla leggerezza, siate un po' più leggeri, un po' più, fatevi una risata ogni tanto, proprio leggeri, così, buttando via le tossine. Sì, come fare la pipì, esatto, uguale. Così, liberatevi. Intanto è stato presentato Into Paradiso. Già, si pronuncia così, così mi ha detto Marta Cagnola, di Paola Randi, con Gianfelice Imparato e Peppe Servillo, già celebrato a Venezia e nelle sale il prossimo weekend. La colonna sonora è di Fausto Mesolella, chitarrista degli Avion Travel, ha anche scritto il testo della controversa canzone che Tricarico sta per portare a Sanremo, festival che col suo gruppo vinse nel 2000. Ma intanto partiamo dal film. Finalmente si va a scavare dentro una Napoli, dentro un'altra Napoli. No, queste comunità, che poi ce ne stanno tante all'interno di questa città, che è la vera città multietnica italiana, insomma, alla fine. La città che per prima ha ospitato, diciamo, il multietnico. E niente, poi la cosa poi divertente è che tutto, per quel che riguardava la colonna sonora, tutto si andava a fare, escluso pizza e mandolini, proprio esattamente all'opposto di quel tipo di concezione, appunto per questo è molto divertente. Ma questo Peppe Servillo attore com'è, bravo? Cioè, no, è strepitoso secondo me, cioè, perché io poi ce l'ho davanti, io insomma sono 30 anni che gli vedo le spalle, questo film me lo ritrovo girato di faccia, per me è strano, no? Perché suonando, lui stando avanti, io gli guardo le spalle. È vero. Ma lui è un attore, è il suo futuro. Tra due settimane Sanremo, a meno di due settimane Sanremo, sì. E anche qui un'altra avventura. Intanto voglio chiederti, qual è il tuo ricordo di un Sanremo che andò particolarmente bene per gli Avion? Ricordo, capito, noi abbiamo sempre portato questa cosa di essere di casetta, insomma, quindi sempre con gli occhi dei provinciali che si vedono in piazza al caffè e poi vanno a vincere un festival. Cioè, per noi non cambiò molto se non riunirci fra di noi e sorridere di questa cosa, questo è il ricordo che abbiamo. Infatti quando ci pensiamo andiamo a ripescare tutte le cose che ci hanno fatto ridere. Tipo? Il nostro modo di essere impacciati ad arrivare sul palco, perché non ci abbiamo proprio le posture da rockstar, per cui per noi è sempre quelli di casetta che sono andati a fare una cosa là in mezzo a questi extraterrestri. Insomma. Tutte queste polemiche sul testo ti hanno toccato o no? No, nella maniera più assoluta, perché non è vero innanzitutto, perché poi fa fede il timbro di deposito che è stato fatto per concorrere al festival. Da quel momento in poi il testo non è stato cambiato più. Bene, con questo siamo arrivati alla conclusione, non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia oggi con me, augurarvi naturalmente un ottimo fine settimana e rimandarvi subito all'ascolto di GR24 e poi del nostro consueto appuntamento con l'Europa condotto da Federico Taddia. Noi ci risentiamo la prossima settimana.